Pronto? Sì, torniamo in diretta. Penso che c'è il cavo del microfono che fa le bizze. Allora, una compagna che appunto partecipa all'assemblea in corso a fisica. Allora, ciao. Ciao, ciao, sono Antonietta. Ciao Antonietta. Allora, raccontaci un po' della tua realtà specifica e poi anche un po' come sta andando questa assemblea. Intanto casomai comincia da te. Io appartengo alla rete Campana Salute Ambiente, che in realtà ha lanciato questa cosa, a cui immediatamente hanno risposto e quindi l'abbiamo organizzata insieme, il comitato Noinc di Albano. Oddio, la nostra realtà credo che sia forse la realtà che voi più conoscete, nel senso che è un'emergenza ed è una lotta che dura da diversi anni, che in questo momento c'è una sua criticità su Castagnaro, perché vogliono aprire una discarica al Castagnaro in altri 6 siti, però al momento insomma è stoppata, tant'è che notizia di stamattina che Vardì, che è il commissario incaricato di trovare i siti per le nuove discariche, si è dimesso. Quindi questo presidio di 6 mesi al Castagnaro ha avuto i suoi frutti. Pronto? Sì, sì, noi siamo qui, ti ascoltiamo con attenzione. L'assemblea sta andando bene, nel senso che anche se hanno risposto in particolare il Lazio, la Campania, qualcosa dalla Toscana, Umbria e Sicilia, purtroppo non ci sono altri comitati, forse c'è quello di Genova. Avremmo voluto qualcosa in più, però come primo incontro nazionale che punta ad organizzare un movimento e non una rete di discussione, perché ce ne sono infinite in Italia su questo tema, noi pensiamo che sia il caso ormai di superare il ristretto regionale, cominciare a collegarci e cominciare davvero a fare delle mobilitazioni unitarie, visto che abbiamo non solo lo stesso problema, abbiamo lo stesso nemico che è il governo e sono le grandi aziende che sulla questione dei rifiuti e sull'ambiente in generale, perché non è solo un problema di discariche e di inceneritori, ma abbiamo le trivellazioni, la geotermia, le grandi opere come la TAV e quant'altro. Le grandi aziende sono le stesse, quindi Marcegaglia, Cerroni, Impregilo e via dicendo, e quindi rispetto a nemici così comuni e nello stesso tempo a problematiche uguali dappertutto, che sono di devastazione del territorio e della salute, e nello stesso tempo anche le stesse soluzioni che proponiamo sono un po' le soluzioni che hanno tutti i comitati, è il caso di fare questo passaggio. Quindi noi con questa assemblea proviamo a costruire per la prima volta un movimento vero sulla questione dei rifiuti, che parta ovviamente dalla solidarietà fattiva e non psichica, come molto spesso è successo, per cui siamo vicini a, noi guardiamo invece a momenti di solidarietà quando ci sono repressioni, quando ci si impone con la militarizzazione dei territori e l'apertura di discariche e di altri impianti nocivi, una solidarietà vera con blocchi, un po' come ultimamente abbiamo visto anche capitare per la Notav, per nostra fortuna. Quindi vorremmo cominciare a costruire questi momenti, però ovviamente usciremo, io spero, da questa assemblea con un successivo incontro da fare a settembre, per vedere poi di lanciare un'iniziativa insomma nazionale, e ovviamente noi pensiamo ad un'iniziativa da fare qui a Roma, che è il centro ovviamente non solo di un'emergenza che si affaccia e che già vede comitati come Ariano in lotta, ma che è anche il centro del potere, di chi dà le direttive su questa questione. Quindi adesso insomma si stanno intervallando i vari comitati, stanno intervenendo, mi sembra che c'è un comune sentire, e quindi questo insomma ci dà buona speranza che da questa assemblea emerga questo percorso, ecco. Quindi è un avvio, mi sembra già buono per la verità. Sì, quindi un po' uscire dalla logica, se qualcuno ce l'ha ancora, che non fanno la discarica, non fanno l'inceneritore dove sto io, e quindi il discorso è chiuso. Esatto. Sì, anche se noi stiamo verificando che un po' con le lotte di questi anni poi si è sedimentata una sensibilità, per cui quella di cui ci accusano la sindrome NIMBY, quindi non nel mio giardino, sia ormai una cosa davvero relegata a comitati dove purtroppo c'è una forte presenza di anche politici, insomma, di partiti che di destra e di sinistra, che magari cavalcano quella criticità e quella mobilitazione in maniera opportunistica a scopo elettorale, per poi svendere quella lotta o far diciamo accettare il male minore. Magari il male minore è la discarica a 10 chilometri, insomma, e non nel luogo scelto. Quindi questa sensibilità mi pare che stia abbastanza diffondendo, quindi partiamo, diciamo, già da un livello in cui persino l'esportazione di rifiuti, cosa che sta avvenendo ad esempio in Campania con il magico De Magistris, che si presenta anche agli occhi dei movimenti dei rifiuti e non solo dei rifiuti come chi ha rivoluzionato tutto, non ha rivoluzionato un accidente, stiamo esattamente al punto di prima, e se non abbiamo, diciamo, la monnezza per le strade è solo perché l'escamotage trovata è quella di mandarli in Olanda, insomma, quindi la diossina se la beccano gli olandesi e non ce la becchiamo noi. Ma nei fatti non c'è nemmeno da parte di questa amministrazione una svolta vera, insomma, dopo un anno non c'è manco un finto impianto di compostaggio, insomma. Quindi, diciamo, questa coscienza che né qui né altrove c'è tra i comitati, questo sembra emergere anche in questa giornata, e quindi credo che, ripeto, insomma, partiamo già da un livello buono, insomma. Ovviamente si risente ancora di in alcuni interventi, in particolare di questi della rete di rifiuti zero, che, diciamo, ritengono, insomma, di essere il legittimo rappresentante dei movimenti sui rifiuti in Italia, cosa non vera. Si risente un po' ancora questa logica di rete, soprattutto di discussione più che di mobilitazione. Noi invece pensiamo che solo con rapporti di forza invertiti, cioè con una forza vera, con una mobilitazione vera sui territori e nazionale, si può effettivamente vincere questa partita, perché altrimenti, diciamo, possiamo anche, come è avvenuto in Campania, vincere e bloccare un progetto criminoso, ma non vinciamo la guerra, perché gli interessi in questa guerra sono molto forti, e quindi abbiamo la necessità di avere un movimento all'altezza, insomma, di questo scontro, perché parliamo di profitti, parliamo di grande impresa, parliamo di una logica di uno sviluppo cosiddetto dove il territorio e i beni comuni sono diventati la frontiera per fare profitti, insomma, dopo, quindi, devastazione su una devastazione precedente. E quindi non a caso abbiamo avuto e hanno aderito anche a questa assemblea altri comitati che non ci azzeccano niente con i rifiuti, apparentemente, come il comitato No Luminosa di Benevento, che sta facendo la lotta non solo contro la turbogas ma anche contro le trivellazioni che sono previste nel Beneventano e anche nel Salernitano, che rischia di rendere, insomma, quella terra già devastata dalle discariche una terra devastata anche dal petrolio, come è accaduto in Basilicata. Quindi allargare oltre i rifiuti, allargare all'intera questione ambientale, a tutta la questione ambientale rispetto alla devastazione che passa attraverso grandi opere e quant'altro, ed impianti nocivi che sono finanziati, che sono in questo momento, diciamo, il settore su cui una parte dell'imprenditoria italiana si sta buttando. Quindi sono temi forti, interessi forti a cui noi dobbiamo rispondere con un movimento forte, questo è l'obiettivo. Va bene, noi ti ringraziamo e, appunto, grazie, rivediamo che è in corso ancora questa assemblea fisica all'Università della Sapienza, e un saluto a te e a tutte e tutti coloro che sono all'assemblea da Radio Onda Rossa. Ciao, grazie. Grazie.